Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento, nuova settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo nella settimana santa, quindi vediamo in lontananza la Pasqua. So che voi avete fatto un po' di calcoli, un po' di statistiche, no? Certo, ogni anno l'Adico promuove la solita indagine per verificare un pochino l'andamento e l'abitudine delle persone, del nostro campione, su quello che faranno in questi giorni di Pasqua e di Pasquetta. E anche quest'anno abbiamo rivolto un po' le stesse domande a circa 500 iscritti e chiaramente siamo qui a commentare quelli che sono dei dati che fanno chiaramente presagire che sarà una Pasqua molto magra e soprattutto all'insegna dell'incertezza. Ecco. La crisi sussiste? Allora, da quanto è emerso dai nostri dati, praticamente 3 persone su 4 non hanno programmato nessuna vacanza, e questa è una cifra che rispetto all'anno precedente si è rivalutato del 14%. Mentre per quanto riguarda le persone che hanno deciso di voler mangiare fuori, ed è una minima parte rispetto al nostro campione che abbiamo monitorato, le persone hanno dichiarato di voler spendere da un minimo di 30 euro a un massimo di 50, mentre coloro che hanno deciso, guarda, l'89% del nostro campione di rimanere a casa, il budget a disposizione sarà inferiore ai 30 euro. Quindi praticamente rispetto al 2014 abbiamo dei dati certamente visti a ribasso, anche rispetto a quelli che sono dei dati che in questi giorni sembrano voler far riprendere un po' la fiducia che i consumatori hanno nella ripresa. Ecco, questo era un po' certo. Un dato che mi premeva evidenziare. Ecco, quindi molti quelli che resteranno a casa a mangiare, insomma, si faranno il pranzo di Pasqua secondo le proprie ricette, con le proprie tradizioni, che non andranno a utilizzare gli esercenti che, insomma, tra trattorie, ristoranti, agriturismi offriranno sicuramente dei menù prelibati. Sappiamo, insomma, che ci sono però menù per tutte le tasche un po'. Sì, guarda, ti do i dati che stavo leggendo in tempo reale su questo. Il 76% del campione che ha deciso di andare in ristorante, e ricordiamo che è 1 su 4, spenderà un importo compreso tra i 30 e i 50 euro a persona, e questo segna un 20% in meno rispetto agli anni precedenti, mentre abbiamo un più 4% di coloro che deciderà di spendere oltre i 50 euro, però siamo su una minima parte del nostro campione. E poi 2 persone su 3 appunto che hanno deciso di trascorrere il pranzo a casa sostanzialmente spenderà meno del 2014, e parliamo di una cifra inferiore di circa il 38%. Poi invece per quanto riguarda le ferie, l'80% delle persone hanno dichiarato di rimanere sostanzialmente a casa, però di coloro che vogliono andare via non faranno praticamente più di 3 giorni, solo 1 su 5 ha dichiarato che farà più di 3 giorni, massimo una settimana. Di questo il 73% starà in Europa, e solamente una persona, un quarto del nostro campione, deciderà di andare su una città d'arte, mentre i rimanenti preferiranno andare a trovare parenti e amici, e qui abbiamo un dato valutato del 14% rispetto all'anno precedente. Ecco Carlo, queste sono le statistiche. Poi però magari bisogna tenere in considerazione che il periodo della Pasqua cambia, quindi magari anche il tempo, se è Pasqua, come dire, alta piuttosto che bassa, può essere più freddo o meno freddo, e qualcuno si può organizzare in questo senso anche, no? Sì, è vero che, infatti lo ribadisco, che c'è stata molta incertezza sul campione che ha risposto a queste domande, perché la gran parte dei casi hanno dichiarato ancora di non sapere cosa fare. L'unico dato certo che è emerso, come le persone hanno detto, che non andranno via. Quindi sul fatto che le persone non faranno, cioè più di 3 giorni, e sul fatto che le persone che andranno in ristorante a mangiare a Pasqua, ecco, sono 2 dati certi. Poi sai, la vacanza fuori porta, la notte più, la notte meno, comunque è tutto un po' all'insegna dell'incertezza, dell'ultimo momento, di quelle che sono le offerte, low cost e quant'altro. Certamente tutto quello che può essere un ragionamento positivo è rivolto a meno del 20% del nostro campione, quindi lontani certamente da quelli che erano i dati anche degli anni passati. Certo, dato che parlavi di gite, di uscire di casa, mi raccomando, per Pasquetta cerchiamo di metterci d'accordo di non andare o tutti al mare o tutti in montagna, ma insomma anche i parchi delle nostre città offrono la possibilità, come dire, di trovarsi in compagnia, tagliare 2 fette di salame, 2 uova, sode, un po' di cioccolata e via, la giornata può trascorrere bene comunque, evitando magari di imbottigliarsi nel traffico, perché poi è vero che tanti non fanno i 3 giorni di vacanza, poi sono molti quelli che dicono ok, gita fuori porta il giorno di Pasquetta e lì iniziano i problemi. Sì, diciamo che quest'anno la Pasqua sarà poi un'occasione veramente per trascorrere con i parenti e amici anziché negli alberghi, e poi per quanto riguarda le strutture molto ricercate, le bed and breakfast, gli appartamenti, e anziché gli hotel a 3-4 stelle, quindi tanti segnali che certamente fanno capire un po' le tendenze dei prossimi giorni. E vabbè, comunque buona Pasqua a tutti, buona Pasquetta, buone feste, lo diciamo. Noi però con l'Adico ci ritroviamo anche giovedì per un altro appuntamento, grazie al presidente Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.